Buongiorno e benvenuti a Un giorno alla volta, il devozionale quotidiano sulla parola di Dio curato dalla Chiesa Logos a Firenze. Questa è la riflessione di oggi. Questo è Genesi capitolo 1, versetto 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. L'inizio di un nuovo anno è un momento in cui molti di noi guardano in avanti pieni di speranza e di aspettative. Tuttavia è anche un'opportunità per riflettere sui principi fondamentali della nostra esistenza. Nel Cristianesimo così com'è, un libro di C.S. Lewis, lui descrive Dio come l'unica persona in tutta la realtà che non ha un passato, perché Egli è sempre stato. Questo pensiero ci invita a contemplare il vero inizio di tutto, non solo di un nuovo anno, ma dell'intero universo. È ciò che la Bibbia descrive come un'oscurità totale, un vuoto assoluto e poi una voce potente che rompe il silenzio e dice sia la luce. Qui ebbe inizio il mondo fisico che conosciamo ed è qui che Dio stabilisce tutto l'ordine divino, un proposito che trascende il tempo e lo spazio. Egli tracciò le linee guida di tutto ciò che esiste secondo il suo potere e il suo decreto. Genesi capitolo 1 versetto 1 non ci parla soltanto di un evento passato, ma ci invita a considerare chi sta al centro di tutta la creazione, comprese le nostre stesse vite. In che modo cambia la nostra prospettiva sul futuro quando ricordiamo che tutto ciò che siamo e tutto ciò che abbiamo proviene da Dio? Cerchiamo di comprendere il passaggio. Qui Dio stabilisce il fondamento della nostra fede. Nel principio Dio creò. Questo non è solo un'affermazione teologica, è una dichiarazione dell'assoluta sovranità di Dio. Mosè, scrivendo queste parole, lo fece in un contesto in cui molte culture avevano miti di creazione caotici e pieni di conflitti tra dei. Al contrario, la Bibbia presenta un Dio che non ha bisogno di lottare né di competere. Egli parla e tutto prende vita. Il verbo ebraico bara, usato per creare, è riservato esclusivamente a Dio nella Bibbia, sottolineando che solo Lui ha il potere di trarre qualcosa dal nulla. Questo versetto ci porta anche a considerare il motivo dell'esistenza della creazione. Non siamo il prodotto del caso. Tutto ciò che Dio ha creato, dai cieli alla terra, ha uno scopo. In Colossesi 1,16 l'Apostolo Paolo afferma che tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, cioè di Cristo, e per Lui. Questo significa che Cristo è sia l'agente, sia lo scopo della creazione. Il nostro posto nell'universo, la nostra ragione di essere, è direttamente legata alla persona di Gesù. All'inizio di questo nuovo anno, come possiamo vivere in modo da riflettere questo piano divino? Ecco tre verità bibliche di questo passaggio. Numero 1. Riconosci la sovranità di Dio. All'inizio di questo nuovo anno, poni Dio come il fondamento di tutte le tue decisioni. Ricorda che lo stesso Dio che ha creato l'universo ha il controllo assoluto su ogni aspetto della tua vita e su ogni cammino che intendi intraprendere. Numero 2. Cerca il tuo scopo in Cristo. Nulla di ciò che facciamo dovrebbe essere scollegato dalla nostra chiamata a dare gloria a Cristo. Questo va oltre il semplice comportarsi bene. È qualcosa di radicato nel riflettere il suo carattere e nella ricerca costante della gioia in Cristo. Numero 3. Vivi con speranza. Il Dio che ha progettato i fili della storia controlla anche la nostra. Non c'è nulla al di fuori del suo piano e questo è tremendamente fonte di speranza. Una riflessione. In questo primo giorno dell'anno ricordiamo che tutto inizia e finisce in Dio. Genesi 1:1 non è solo un antico racconto, è un invito a centrare le nostre vite sul Creatore e a deliziarci nel piano che ha per noi. Mentre procedi in quest'anno, lascia che la verità secondo cui tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e per Lui ti guidi. Affida i tuoi piani nelle sue mani, perché questo garantirà che anche se non dovessero realizzarsi come ci aspettiamo, si realizzeranno come Egli, nella sua sapienza, ha stabilito per la sua gloria. Se Dio ha potuto creare i cieli e la terra con la sua parola, immagina cosa quella parola può fare nella tua vita e nella mia se la poniamo al primo posto nella nostra esistenza. Preghiamo. Signore, all'inizio di questo nuovo anno, riconosco il tuo potere e la tua sovranità nella mia vita. Guidami in ogni decisione e aiutami a vivere secondo il tuo piano, che sebbene a volte possa non comprenderlo, posso sempre confidare sia migliore del mio o di quello che qualsiasi uomo in questo mondo, per quanto saggio, possa concepire. Fa sì che tutto ciò che faccio rifletta la tua gloria e completi la gioia che mi hai donato, rendendomi tuo figlio in Cristo Gesù. Amen. Oggi leggiamo Genesi 1, Matteo 1, Esra 1 e Atti 1. Grazie per essere stati con noi. Un giorno alla volta è una produzione liberamente tradotta e adattata in italiano. Se desideri approfondire, ricevere ulteriori risorse o metterti in contatto con noi, cercaci online come Chiesa Evangelica Logos. A domani!